dai suoi sguardi che potesse perdere la vista che i capelli. Io ti chiedo scusa se sono sincero, ma questa pazzia è ciò che rende un uomo vero. Tutto è cominciato dunque dai suoi occhi. Se potessi glieli caverei, ma adesso è tardi. Scusami davvero, il mio non è orgoglio, ma vedervi morti adesso sì è quello che voglio. Dunque comincio, e se comincio da quando è stato, dimmi l'ora, il giorno e giuro non ti guardo più. Punto la pistola dritta ai miei pensieri, è l'unica via, credi, la sola, non fermarmi. Io ti ho respirato ed è me il veleno, e comunque sia sarei concime per terreno. Stappa la bottiglia del mio malincuore, e il tormento è schiuma, qui bisogna festeggiare. Col mio riso amaro, candido e civile, ma potessi scendere e picchiarti.